Lo conoscete il profumo della menta voi? Ah sì? Beh, proviamo allora. Questo è un tipo di menta. Questa viene su per i muri. Provate a storticciare con le dita. Fa vedere, posso sentire? Aspetta. Anche così. Dai, guarda. Posso sentire? Sì? Passatevelo uno a uno. Ha un odore buono. Anche questa è passato il tempo, deve fiorire ancora. Perché... eccola, la mia marita. Ha detto di mettere in bocca una fiorina. No, è un altro sempre tipo di menta. Una foglia per ciascuno, no? Sì, grandi. Provate. Questa però è un altro tipo. Provate a stropicciare le foglie. Ma no, questa, scusa. Così quando vado in manovra. Perché dopo qui ho tolto tre sapori. Che buona! Stropicciando le foglie. Questa, che non è la vera, eh? Uh-huh. È sempre quella selvatica. Guarda se volete sentire. Questa è l'erba del medico. Questa che però in italiano non si dice.